Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Un'altra giornata all'asilo, Drago. Ah, bene, comincio ad averne abbastanza. Finito. Ma che ti lamenti, dai. Siamo appena arrivati, sono già stufo. Kappa, fuori da questo asilo c'è comunque un altro grande asilo, grande quanto l'Italia. Almeno qui stiamo con i bambini veri, quelli simpatici e innocenti. Alla fine ci divertiamo, no? Ma chi si diverte con te, Drago? Perché? Tu non giochi mai con i bambini. Ma tu sei sempre lì che fai le interviste, prendi appunti, ragioniamo, news and talk. Ma noi stiamo lavorando, non posso mica mettermi a gattone e caricarmi i bambini sulla schiena, Ma perché no? Perché ho male alla schiena, quindi, Ma Drago, ma è quello lì l'infantilismo. Cioè, se vuoi indagare l'infantilismo che domina nella società contemporanea, comincia a essere infantile. Gattoni, certo. Farmi venire il colpo della strega, ma dai. Tu gli parli di argomenti che non gli interessano, i bambini. I bambini cosa ne sanno di politica, di ministri, di presidenti, ma chi se ne frega? Ma di nuovo con sta storia. Guarda che la politica può e anzi deve essere spiegata ai bambini. Ma chi lo dice? Lo dicono tanti. Lo dice il bambino calvo Vincenzo Cerani. Chi? Quello che scrive i film per Benigni. Bambino calvo. Lui ha messo in piedi uno spettacolo teatrale ambientato in un'aula delle scuole elementari. Non all'asilo, ma alle scuole elementari, guarda caso. Dove spiega ai bambini che cosa vuol dire democrazia, che cosa vuol dire legalità. Insomma, spiega loro i fondamenti della politica. Quindi vedi che si può fare. Secondo me, Drago, anche se la politica gliela spiegano i Teletubbies, ai bambini proprio non gliene frega niente. Non è vero. I Teletubbies? Elezioni. Sì, vabbè. Anticipate. Ma no, appunto, vedi, tu sbagli già le parole, perché i bambini devono capire che la politica è democrazia e legalità, non è democrazia, sì, esatto, non è ribaltone, legalità, porre la fiducia, porcellum, sovvertimento della volontà degli elettori, prove tecniche di governissimo, tutte quelle robe lì, è quello che annoia i bambini. Invece, certo, se gli spieghi cos'è la legalità, capiscono, si comportano bene, crescono bene. Ma secondo me l'unico modo è fargli vedere i Fight Club che ci sono in televisione tra i politici. Vedi che non capisci mai dove dobbiamo andare a parare. Ma noi dobbiamo educare i bambini. Drago, conoscono i politici come se fossero personaggi di un fantasy. Ma cosa dici? Quando sul video arriva Ignazio La Russa, i bambini si spaventano esattamente come se arrivasse un troll, capito? Un drago sputafuoco, senza far riferimenti a te. E quando arriva il bambino Sgarbi, scusa, tutti sotto il tavolo per la paura. C'è una democrazia normale. Io vorrei finire la frase. Non dire stronzate. Ma non dici frasi, dici stronzate. Siamo in democrazia, idiota. Ma non c'è la neurodeliri. Clap your hands. Applaudite questa testa di... Clap your hands! Clap your hands! Clap your hands! Clap your hands! Chiedo asilo! E ora, bambini, ricreazione! Oh, Drago, ricreazione, aria pulita, respira. Vabbè, respira, pulita, fresca, aria fresca che ti è. Più che altro vitalizza, fredda, ma vitalizza, freddo cane, senti. Freddo, freddo. Ma non si sta subito meglio invece, che ma freddo. Non è vero, dai. Drago, si sta meglio fuori che dentro. Vuoi stare dentro, nelle aule, nei corridoi, con l'aria stantia, l'odore di minestrone. Puoi dire quello Lascia che vuoi, stare, però d'inverno è giusto starsene nelle aule. Anzi, a me piace il tepore dell'aula insegnanti, magari con una signorina di buon umore, spendo un caffè. Smettila. Dicono due ma robe, quali cicciate. Signorine, quale buon umore? Al massimo incontri Suor Dentona, a tua per tua. No, Suor Dentona no. Uè, allora? E cos'è che fate anche voi fuori al freddo? Bambino Bertinotti, come stai? Bertinotti sono i miei genitori. Ma come sarebbe a dire che i tuoi genitori sono Bertinotti? Ma cosa stai dicendo? Sarebbe a dire... Allora, sarebbe a dire che a loro piaceva Bertinotti. Prima, però. Prima di cosa? Ma prima di ritirarsi, no? Adesso ha smesso. No, prima che diventasse ostaggio di sua moglie. No, vabbè, ma Tito, ma dai, Alberto, smettiamola. E non andiamo, c'è da protestare? Andiamo fuori tema. Stavamo parlando prima del freddo. Non abbiamo ancora cominciato. Già siamo la moglie di Bertinotti. Ma che fuori tema? Cioè, la moglie di Bertinotti? Lella? La Lella? È importante, Ma che ne sai tu? Ma bambino Alberobello, cosa ne sai tu di politica? La politica non interessa i bambini. L'abbiamo detto anche prima, lascia stare. Vabbè, ma io infatti non so niente di politica. Questo è un male, perché dovrebbero saperne di politica i bambini, anche tu, adesso tu dici Bertinotti così a caso. Dice anche la Lella. Vabbè, io ripeto quello che sento in casa, no? I miei genitori sono comunisti. Vabbè, ma questa terminologia di tanti anni fa, ma tu sei troppo giovane per dire la parola comunista, bambino album. Album. Album. È un nome rock, no? Da vinile. Album. Vabbè, piace? Beh, allora mi piace. Oh, sì, vedi? È album. Un po' corto, un po' tronco, però tronco. È bello, eh? Album. Album. Eh? Oh, allora, bambino album, è così. E quindi, tornando a Bomba, i miei genitori, Fausto Bertinotti, lo esaltavano, eh? Quando io ero ancora piccolissimo, piccolo, era tutto un Bertinotti di qui, Bertinotti di là, il nostro Fausto. Ma tu quando eri piccolissimo ti ricordi quello che dicevano i tuoi genitori di Bertinotti? Ma sì, perché ho dei flash. Ma che brutti flash. Cioè, però, tu in carrozzina e loro che parlano di Bertinotti. No, io in carrozzina ho sul seggiolone e i miei genitori che mi facevano vedere la foto di Berlusconi, no? Mi dicevano, questo Berlusconi, cattivo, cacca, E tutte le facce, no? Che fanno i genitori, imbecilli davanti ai bambini, E poi mi facciamo vedere la foto di Bertinotti, no? Questo Bertinotti, il Fausto, Fausto bello, bravo, evviva, evviva, Vabbè, capito? Questi metodi un po' pavloviani, però funzionano, insomma, tu funziona, non lo so, a lui non gli piace Bertinotti, non lo so. Perché poi mio padre, dopo, mi faceva vedere le foto di Pirlo e Zanetti, no? Di chi? Cioè, mi faceva vedere la foto di Pirlo, no? Di Andrea Pirlo. Due calciatori, calcio. Vabbè, scusate, non sai io niente. Andrea Pirlo e Javier Zanetti. Certo. Foto di Pirlo. Del Milan. Milan. Andrea Pirlo, bravo, buono, eh. Evviva, urrà! Vittoria, sì. Come Bertinotti. Poi, come Bertinotti. Poi faceva vedere la foto di Zanetti. Questo qui è Zanetti. Zanetti cattiveria, Brutto, blu. Come Berlusconi. Berlusconi non è il presidente del Milan, non capisco. Vabbè, quello non c'entra. Comunque calcio e politica tutto insieme in un secchio. Con un uovo sopra. Sì, ma Pirlo e Zanetti, mio padre me li faceva vedere di nascosto da mia madre. Sì, perché metti caso che lei avesse visto guardare il calcio. No, il calcio no, è per mia madre. Vabbè. Mia madre aborrisce il calcio. Calcio del diavolo. Il capitalismo. Ma come il diavolo, ma dai. Anche mio padre, Come anche tuo padre? Se ti fa vedere le foto di Pirlo. Ma per finta, no? Ma come per finta? Sì, per finta, perché lui poi si va a vedere anche tutte le partite su internet, in streaming. Ah, gratis, Sì, tutto se le guarda, Poi però, temendo che mia madre possa sgamarlo, lui apre la pagina internet del manifesto, no? Manifesto, sì. Così, se mia madre è lì, lui la sente sciabattare che arriva, e tac, gira sulla pagina del manifesto, e tanto con le cuffie, che lui mette sempre le cuffie, sente l'audio della partita ancora, no? Capito, poi mia madre passa e lo guarda lì sul manifesto di Leggere marito, notizie. Mio marito, quotidiano comunista. E poi gol, vabbè. Se c'è gol deve... Deve trattenersi. Vabbè. Vabbè, ma stavamo parlando di Bertinotti, bambino Albertuccia. Sto Bertinotti. A questo punto i miei genitori hanno cominciato a parlarne un po' male, no? Certo, a criticarlo. Punto. Quando? Sì, quando Bertinotti ha cominciato a essere invitato alle feste dei VIP, no? A Roma. I salotti romani. Le feste dei ricchi, Vabbè, ma si fanno mica in base al censo le feste. Vabbè, le feste dei ricchi. Comunque, questo qui andava alle feste dei ricchi, tutto vestito come un bel gagà, Col cashmere, il sigaro, il vestito da 20.000 euro. Vabbè, andava vestito da festa adesso. Con il vestito della festa. Vabbè, ma i genitori questo non potevano concepirlo, Vabbè, ha ragione, perché comunque alla fine i genitori di Alberto sono come tante altre persone che hanno visto che Bertinotti ha mollato un po' il colpo. È diventato gagà. È un po' gagà, sì. Allora, i miei genitori hanno dato la colpa alla moglie di Bertinotti, Lella, Lella. Cerce la fama. Si fa sempre così, come con Iocono. Perché secondo loro è colpa sua se il bambino Fausto è diventato un nemico della rivoluzione. Cosa dici? Così lo chiamano i miei, no? E adesso ci sono invasati per il bambino Vendola. Invasati? Sì, invasati, vendola di qui, vendola di là. E poi, tra parentesi, a me sta sui maroni. Ma no, ma perché? Dai, il bambino Vendola è così preparato, appassionato. Sì, sarà anche preparato, ma io da quello lì non mi farei neanche dare lezioni di judo, Ma perché? Judo? Ma perché no? Non mi ispira? Non ti ispira. Ha ragione, dai. Come insegnante di judo, Vendola no. Ah, ho capito. Non ha il physique du rôle. No. Poi se ti salta addosso ti schiaccia. Ma no, vabbè, bello pingo. Però si tratta di un uomo politico, non di un insegnante di judo. Dobbiamo giudicarlo per quello, effetti. No? Ma se io la politica non so neanche che cos'è. C'ha ragione. Pensa al judo, capito? Beato te, guarda, bambino Albertino, beato te. Alla fine, dopo tutti questi minuti di chiacchiere inutili, basta, finisce la ricreazione, no, andiamo a casa. Ma come? Sì, ma la sprechi sempre con queste cose in Bertino. Chi se ne frega, potevamo giocare a calcio. Tu lo parla della politica, i bambini. Poi non mi piace spiegarla. Il calcio. Ma basta con sta politica. Qui niente politica. Qui sono sex, drugs e rock and roll. Sì. E fino a Chicotti. Dopo. Con 5K, guarda che i Teletubbies che spiegano la politica è fantastico. Ma no, ma dai. Sì, perché tu ne fai uno che assomiglia un po' al ministro Bondi. E gli fai spiegare, ma metti in parole semplici, dici, non so, libertà, eguaglianza, fraternità, gli spieghi queste basi. Libertà! Esatto, fai vedere tutti i bambini che si abbracciano, tutti i Bondi, tutti i sosia di Bondi che si abbracciano eternità. E si baciano. Esatto. Sembra quasi una poesia di quelle che scrive lui. Libertà, eguaglianza, fraternità. Tutti più buoni, tutti più carini, oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Un programma di Gabba e Drago. Torniamo domani e mandate la vostra figurina di Bertinotti a chiedoasilo@radio24.it. Chiedo asilo.